una specie di squadra di amiche, tra virgolette. Molti infatti si scambiano i numeri di telefono e poi si risentono a distanza, e quindi magari si arriva ad un certo punto dove magari si spiega come stendere un rossetto e magari c'è qualche persona che inizia a raccontare della propria esperienza e le altre si uniscono raccontando la loro, per cui si crea veramente come una specie di salotto tra amiche. Sicuramente al termine di questi laboratori il sorriso, veramente come viene chiamato appunto il progetto, lo si ritrova davvero, lo ritroviamo noi perché vediamo nei loro occhi chiaramente una luce diversa, perché vediamo che si guardano allo specchio e sono felici di come sono riuscite a trasformarsi, tra virgolette. Sono sollevate, sono più leggere, come se per un paio d'ore, due ore e mezza avessero veramente dimenticato quello che è il loro problema e avessero in qualche modo riscoperto il valore della femminilità che avevano chiaramente prima della malattia. Le partecipanti sono al massimo 8 per ogni laboratorio e anche l'aspetto psicologico viene tenuto in grande considerazione. Ai consulenti di bellezza viene affiancato anche un consulente psicologo. Elisa Ruggeri è una di loro. L'idea è questa, è proprio quella di aiutare le donne appunto che vi partecipano a favorire l'integrazione appunto di un corpo cambiato a causa anche delle cure, dei trattamenti oncologici all'interno di un'immagine positiva di sé, no? Questo secondo noi assume un'importanza fondamentale proprio durante il percorso di cura. Migliorare il proprio aspetto fisico, oltre a rappresentare un'attività piacevole, ha anche un forte valore terapeutico. La presenza della psicologa, è giusto sottolinearlo, ha una funzione preventiva. Di norma le signore che arrivano sono un po' agitate, alcune sono anche scettiche, no? Comunque portano con sé veramente ansia e preoccupazione. Poi durante appunto il laboratorio di make-up si sente, si percepisce un rilassamento progressivo, no? Proprio perché il contesto è comunque un contesto amicale, un contesto familiare che lentamente consente veramente alle signore che vi partecipano di allentare le tensioni e sicuramente anche il fatto di essere insieme ad altre donne che affrontano, no, i medesimi problemi, le medesime problematiche legate proprio alla malattia oncologica, a parer mio un forte valore terapeutico, no? Proprio perché stimola veramente sentimenti di condivisione, di comprensione empatica e quindi aiuta queste signore ad uscire proprio dall'isolamento e dalla solitudine che spesso sentono durante il percorso di cura. Prendersi cura di sé, questo lo sappiamo tutti, no? Proprio al di là della malattia, ha un effetto positivo sulla qualità della nostra vita e quindi immaginiamo che effetto appunto può avere durante un percorso di cura. Patrocinata da Unipro, l'Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche, in 6 anni di attività la Forza e il Sorriso ha svolto oltre 800 laboratori coinvolgendo in Italia circa 4.000 donne. Nel mondo sono oltre 1 milione. Far ritrovare il sorriso davanti allo specchio e dentro di sé è lo scopo del progetto, ci dice il presidente dell'associazione Pierangelo Cattaneo. Regaliamo una mezza giornata di, tra virgolette, divertimento, vale a dire, gli insegniamo i piccoli trucchi del trucco. Siamo partiti con lo IEO nel 2006, oggi siamo in 30 centri e c'è una richiesta sempre maggiore di che cosa? Soprattutto dagli enti ospedalieri dicono che dopo la cura la donna ha più bisogno di avere altri supporti psicologici che sono diversi. Fra questi c'è anche il nostro e le soddisfazioni sono immense. Le donne si trovano per la prima volta in un contesto non di medicina, ma in un contesto piuttosto ludico, tra virgolette, con lo stesso problema e pertanto si aprono molto di più. Ecco perché queste signore si trovano ad essere molto più sollevate quella mattina, perché ciascuna porta un piccolo pezzettino della sua realtà e che aiuta le altre e viceversa. Questo è se vuole, la chiave del successo di questa iniziativa. So beautiful to me. Il 16 di aprile avete sentito il reportage sui laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico di Maria Luisa Pezzali. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con una storia molto strana, un viaggio nelle pieghe della mente dell'uomo, un'inchiesta sull'esorcismo in Italia e sulle sette nel nostro paese.